Allora, intanto io sono a Tokyo e non sono a Fukushima, quindi non so dirti esattamente cosa succede nel reattore e credo che nessuno lo sappia se non chi ci sta dentro in questo momento qua. E la cosa un po' strana, ieri parlavo con alcuni attivisti antinucleari qua a Tokyo e niente, praticamente c'è un unico flusso informativo che è quello che poi arriva dalla TEPCO e quindi poi dal governo, quindi altro non si sa. Però giusto ieri questi attivisti insomma, si scherzava dicendo sì, vabbè, poi mica vorranno pure buttare veramente il materiale radioattivo in acqua, e adesso io stamattina sono stato in giro tutto il giorno, quindi sono arrivato adesso a un posto internet, ho scoperto che in effetti vogliono fare questa cosa qua. Io non sono un tecnico né un esperto, ma insomma non mi sembra una scelta particolarmente brillante. Dopodiché adesso cercheremo di capire da chi ne sa un po' di più la valenza poi di questo e quali eventualmente altre alternative potevano essere perseguite. La realtà è che veramente si hanno poche informazioni su quello che sta succedendo nei reattori e poche informazioni su quelle che possono essere le conseguenze e gli eventuali rimedi. Per quanto riguarda il paese che è tornato alla normalità, qui a Tokyo sono almeno 2 giorni, tra l'altro, che non ci sono scosse, almeno non le abbiamo sentite. E in effetti la città, insomma, piano piano sembra ritornare ad una vita normale. Oggi nei quartieri, sia nella city che nei quartieri quelli dove c'è un po' più di movimento, insomma, c'è pieno di gente per strada. Di sera è chiaro, tutto un po' più buio perché c'è comunque un risparmio energetico, però insomma la gente sta provando piano piano a tornare alla normalità. È chiaro che si attendono notizie più precise, quello che effettivamente manca dall'inizio praticamente, e si poteva capire magari nei primi 2 giorni, visto che comunque si è trattato di un evento grosso, insomma catastrofico, con tsunami e non solo per la questione nucleare. Dopodiché però insomma, il flusso informativo è sembrato essere fin da subito un po' precario e traballante. Quindi in questo momento qua, cioè, anche noi stiamo cercando di capire un po' le reali intenzioni della TEPCO, considerando il fatto che la gente è inferocita con quelli della TEPCO, che ieri hanno tentato di organizzare una specie di evento in cui avrebbero dovuto chiedere scusa al popolo giapponese, ma non l'hanno potuto fare per questioni di pubblica sicurezza, perché la gente è veramente avvelenata. Dopodiché viviamo, non c'è grande differenza, diciamo, nel flusso informativo che può arrivare qua o a quello che potete arrivare voi, perché arriva da un unico praticamente punto. E quindi adesso, oggi, andrò a incontrare altra gente, anche blogger giapponesi che insomma sono interessati fin da subito alla cosa, e cercheremo un po' di capire quali saranno le conseguenze di questo, se effettivamente arriveranno a buttare in acqua questo materiale radioattivo. Insomma. Ci sono ad esempio quelli di Champon, che è una specie di media qua locale, che stanno mettendo su molto materiale. Adesso vi sto cercando in diretta l'indirizzo, non so se ce la farò. E dopodiché ieri c'è stata una grossa iniziativa nella sede, mediachampon.net, è una specie di media locale. Io ho incontrato questi attivisti giapponesi un paio di anni fa, proprio mentre stavano mettendo su questa piattaforma. Sì, funziona un po' come in media, con un newswire, con le features, eccetera. E loro stanno seguendo, hanno seguito molto da vicino ovviamente le manifestazioni che ci sono state negli scorsi giorni con le antinucleari. Dopodiché io ieri ho incontrato una ONG che si occupa da tempo di informare la popolazione circa i rischi nucleari, e da sempre, tra l'altro, è stata pronta a denunciare tutta una serie di pericoli conseguenti alla costruzione di nucleari, ovviamente in zone considerate pericolose dal punto di vista sismico. E ieri hanno riempito comunque una sala con 500 persone, una sala del sindacato dei lavoratori qua di Tokyo. Quindi insomma, in questo momento qua loro stanno raccogliendo molto consenso, perché hanno la prova di tutti i discorsi che hanno fatto in questi 30 anni, in cui praticamente mettevano sull'attenti e in guardia, tanto da alcune politiche un po' così della TEPCO, quanto appunto proprio dal rischio nucleare.